piacere del dubbio. Paul Verlaine, chanson d'automne. Les sanglots longs des violons de l'automne blessent mon cœur d'une langueur monotone. Tout suffocant et blême, quand sonne l'heure, je me souviens des jours anciens et je pleure. Et je m'en vais au vent mauvais qui m'emporte de ça, de là, pareil à la feuille morte. Questa è l'apoteosi della tristezza. Se uno vuole toccare fino in fondo il pozzo nero della sfiga interiore, deve collocarsi il giorno del primo entrata d'autunno, quindi oggi che entriamo nell'autunno, e riascoltare la chanson d'automne di Paul Verlaine. È un condensato di tristezza. Era uno che ha fatto anche una vita bella allegra, si era spupazzato uomini e donne, aveva fatto cose carine, aveva anche provato a ammazzare la madre, quindi ha fatto tutte le cose divertenti uno può fare la vita, si era morto alcolizzato d'assenza, quindi è stato benissimo. Però quando ho scritto questa poesia ci facevano studiare a scuola, mi veniva una tristezza, perché erano i primi giorni di scuola, la scuola aveva poco cominciata, capito? Quindi ci facevano sentire i singhiozzi lunghi dei violini d'autunno che feriscono il mio cuore di un languore monotono, le foglie morte, si trascina come una foglia morta, la poesia stringe il cuore, pensate subito alle foglie morte, l'autunno, l'estate è finita, i compiti delle vacanze non sono stati fatti, rivedi la durezza del banco di legno, i compagni di scuola ti prendono per il culo, la maestra, come da bambino mi ha segnato questa poesia, quindi oggi ve la ripropongo. Poi un episodio, un aneddoto: Verlaine, quando è morto, l'ha portato in giro per Parigi col suo feretro funebre, e quando passa sotto l'opera si stacca un braccio alla statua che rappresentava la poesia, casca sto braccione di marmo con la lira in mano, rischiando di sfrantumare qualcuno. Quindi per me Paul Verlaine, poveraccio, il povero Lilian, grande, sublime poeta maledetto, è il simbolo della sfiga. Quindi oggi volevo tastare ancora di più il polso del mio campione umano, che sarebbe il pubblico di Radio 24, all'ora del soffritto, che abbiamo visto molto reattivo. Non so se ve ne siete resi conto. Primo, che è cambiata la sigla del programma, e già questo è un segnale. Secondo, è cambiato completamente questo programma. Avete sentito ombre di ospiti, ombre di esperti, ombre di psicologi, antropologi, politici? No, non ci sono più. Veramente oggi voglio fare una radio populista in pieno, populista nel senso vero della parola. Io ho un campione umano a disposizione formidabile, stupendo, reattivo. Fai una trasmissione dell'argomento più strampalato, le bambole di gomma che assomigliano ai bambini, le donne si mangiano la placenta, ti chiama sempre qualcuno e comunque qualcosa di competente da dire su questa cosa. Beh, io voglio sfruttare fino in fondo il campione del pubblico. Quindi, visto che abbiamo seguito il filone in tutte le settimane precedenti del riemergere di credenza popolare, riemergere questo mondo arcaico, terribile, terrificante, spaventoso, oggi vi tocco su quello che è il residuo più tenace, a cui non rinuncia nessuno. Anche la persona più intrisa di razionalismo dice: ma sai, non ci credo, però non si sa mai, si dà una bella grattata alle palle magari. Ma perché se la dà? Se la dà perché pensa ci sia qualcosa di infausto intorno a lui che possa in qualche maniera inquinare la propria serenità. E quando, quale occasione migliore che il primo giorno d'autunno? Oggi è autunno, è inutile, toglietevi Bermuda, toglietevi l'infradito, date sfogo al bagno schiuma e lavatevi finalmente, anche se si toglie l'ambrozzatura non importa nulla. Guardate le vetrine con quei begli abitucci di lana, con le pellicciotte, cominciate a pensare, ve li metterete. Già comincia quel bel freddino che va a prendere i primi raffreddori, i mal di gola, le malattie, le influenze, le zanzare, c'è di tutto per puntualizzare oggi se veramente credete nella sfiga, quali sono le cose secondo voi vi portano sfiga. Ci sono delle persone particolarmente adatte a darvi questa sorta di aura funerea intorno a voi, che come le vedete, le incrociate, vi accade sempre qualcosa? Io chiaramente non ci credo, però non si sa mai. Sfortuna e disgrazie per tutti coloro che portano via un souvenir dal luogo che ricorda la tragica fine della città di Pompei, laddove i controlli non arrivano a riportare in casa i reperti archeologici trafugati dai turisti, interviene l'antica maledizione. Cocci di ceramica, pietre di roccia vulcanica, frammenti di muri e pavimenti. Questo è il contenuto dei pacchetti che da diversi anni sono recapitati alla soprintendenza, molto spesso insieme ad altrettante lettere di scuse. Gli ignari turisti, facendo ritorno a casa, decidono con leggerezza di portare con sé un pezzo di Pompei, ma non immaginano che insieme al reperto stanno portando con loro anche l'antica maledizione. Diciamo che forse la circostanza ambientale in cui si svolge questo episodio favorisce, ma sta di fatto che il sovrintendente degli scavi a Pompei, Massimo San, sta mettendo su un piccolo museo con i reperti di ritorno, con gli oggettini, i pezzi di sasso, il bambino lavificato, il sassolino. Insomma, ogni turista va lì e saccheggia, se lo porta a casa, il souvenir di Pompei, ci favoleggiano sopra chissà che. Poi per qualche strana ragione lo rispedisce, gli fa un pacchetto, lo rimanda con un corriere internazionale e ritorna a Pompei. Perché? Perché gli succede qualcosa, cambia qualcosa nella vita, per cui quel reperto improvvisamente sembra caricato di potere malefico. Beh, conoscete qualcosa di simile nella vostra esperienza quotidiana? Anche voi avete degli oggetti dei quali vi siete liberati? Io posso elencarvi un'infinità. Oggetti d'antiquariato comprati da un certo antiquario. A un certo punto, consultandomi con tanti miei amici, dice: ma che hai comprato da quell'antiquario? Ah, non crediate che abbia comprato grandi cose, oggettini, ninnolini, cagnolini, cornicine, così. Quando ero un po' più coglione mi piacevano, mi piaceva la casa agghindata di 1000 ninnoli, poi sono venuti i figli, hanno distrutto tutto e ho capito il piacere delle case essenziali, capito? Beh, quando ancora questi ninnolini li compravo, a un certo punto c'erano dei momenti in cui nella mia vita accadevano cose un po' strane. Alla fine, consultandomi con degli amici, ho capito, tutto nasceva da un certo posto dove si compravano queste cose, che magari, che so, le attingeva da patrimoni di persone morte, cose spropriate, cose che non si sa veramente qual era l'origine. Beh, io vorrei sapere da voi se esiste nella vostra esperienza personale ancora qualche oggetto, qualche persona, qualche passaggio, qualche luogo che considerate voi caricato di effetti negativi, e se sì, qual è? 800240024. Qualcuno dice che aprire l'ombrello in casa possa portare male. Ci sono diverse spiegazioni sul perché di questa storia, se andate a cercare in giro. Qualcuno dice che la spiegazione è nel fatto che i primi ombrelli non funzionavano proprio benissimo, per cui aprendoli in un ambiente piccolino, ristretto, qualcuno avrebbe potuto farsi male. Un'altra spiegazione è che invece aprire un ombrello in casa ha in realtà un significato differente. Se hai infatti bisogno di aprirlo, diciamo nel tuo salotto, è probabilmente perché sta sgocciolando acqua dal tetto, ti sta piovendo in casa e quindi hai bisogno di ripararti anche lì. E qual è il motivo per cui dovrebbe pioverti in casa? Beh, il motivo è semplice, è che non hai la possibilità di far riparare il soffitto. Quindi per questo motivo aprire un ombrello in casa potrebbe essere associato all'idea di miseria, di non avere abbastanza soldi, di non poter provvedere alla propria casa, e dunque per questo motivo porterebbe male. Vorrei andare oltre quelle che sono le classiche facezze, darsi la mano in quattro incrociate, sembra che sarebbe debba succedere, non si è mai capito. Ah no, fermi, non facciamo le croci, queste cose qua. Aprire l'ombrello, sono cose antiche, sono cose che appartengono ai nostri nonni, vorrei qualcosa di un pochino più legato alla contemporaneità. Persone, ad esempio, ci sono persone che a un certo punto, ogni volta che le invitate, ci uscite, ci state assieme, qualcosa vi cambia. Non vi spaventate, non voglio darvi una colpa di residuo superstizioso, di non credere nella razionalità o di pensare cose arcaiche. Liberatevi questa mattina. Apro e chiudo una parentesi. Lo spirito conservatore del pubblico della radio. Cioè, la sigla è cambiata una settimana. Oggi, perché l'ho detto subito, vogliamo la vecchia sigla, sigla orribile. È bellissima questa sigla, è stupenda. È in linea con quello, è il contenuto della nuova trasmissione. È stupenda, perché è bellissima? Perché siete così conservatori? Una cosa a cui siete abituati e la volete per sempre. A un certo punto c'è un'interruzione. Fate finta che la vecchia sigla portasse sfiga. E noi abbiamo messo una sigla nuova, ma per salvaguardarvi, per farvi stare meglio. Le sigle e i programmi, dopo un po' di anni, quando uno le mette troppo tempo, portano sfiga. E naturalmente, noi che lo sappiamo dalla radio, le cambiamo ogni 5-6 anni, mica tanto spesso. Valentina, buongiorno. Buongiorno. Ecco, stiamo puntualizzando. Ci sono degli oggetti, quindi, carichi di influenze negative? Ma pare di sì, vabbè, io ancora non ci credo molto, però faceva ridere questa storia. Cioè, nessuno ci crede, però raccontarlo fa star meglio. Può essere che forse sì. Si liberi allora del suo fardello ponderoso e doloroso. Niente, ho un carissimo amico che fa il fabbro, che produce tantissimi tipi di oggetti. Di ferro, tutti oggetti di ferro. E già il ferro in sé. Un fidanzato che voleva a tutti i costi regalarmi un oggetto d'arte, per cui si è fatto fare una rosa. Sì, ma di solito, scusi, i fidanzati vanno dall'orefice, il suo va dal fabbro. Abbastanza. Già, facciamo il dettaglio. No, la micrania del suo fidanzato già se lo porta come fosse una calamita della sfiga. Il braccino corto già in sé assomiglia al braccino del gobbetto portafortuna che si porta in tasca. Il suo fidanzato aveva il braccino corto, quindi era già micragnoso. Micragnoso, quindi faceva cose sfigate. Invece andare dall'orefice, fare una rosa d'oro, di platino, tempestate brillanti, va dal fabbro. E cosa chiede al fabbro? Questa rosa di ferro. Ma quanto pesava sta rosa di ferro? Vabbè, no, era lunga, non so, 30 centimetri. Cioè, ecco. Le regalò un oggetto di ferro di 30 centimetri. Ok. Vabbè, 30 centimetri era il gambo, scusi, era il gambo della rosa. Sì, sì, il gambo della rosa con la rosa in alto e le relative foglioline. Ma lei se l'attaccava al collo? Cosa faceva con questo attrezzo? No, era un oggetto, un soprammobile. Sì, perché sarà pesato almeno 2-3 kg, penso, no? No, così tanto no. Un chilo, sì. Un chiletto, sì. Un chilo. Una rosa, ma cioè un oggetto contundente. Ok. Con le spine, scusi, con le spine, questo è importante. No, non mi sembra. Sicuramente, cioè, no, come regalare un coltello, una forchetta, una cosa acuminata. Porta sfiga, lei doveva dargli un soldino in cambio. Quindi ha preso questa rosa e quindi? Il mio amico l'ha avvisato, guarda che però questa rosa secondo me porta sfiga. No, no, cioè, non è vero. No, aspetta, lo stesso fabbro fa un oggetto e dice porta sfiga. Sì. Perché gli era capitato appunto di regalarla e che fosse andata male, insomma. Quindi lui sapeva che produceva rose porta sfiga. Sì, è perfettamente cosciente di questa cosa. Credo che abbia smesso, infatti. Cioè, tante ne hanno regalate, tanti amori sono frantumati. Insomma, sì, dopo qualche mese il fidanzato è stato lasciato. Beh, questa è una fortuna per lei, è stata, scusa. Per lei è stata una grande fortuna. Si è liberato un uomo così. Non so esattamente quale, non ricordo più quale altro avvenimento in famiglia fosse accaduto in quel periodo, però, insomma, mia mamma ha iniziato a guardare male questa rosa di ferro che io avevo messo in casa. Come ve ne siete liberato? Questo è difficile. L'ha nascosta, questo fa ridere, l'ha nascosta in casa di mia nonna. Che è morta? No, ecco, perché? Perché mia nonna era una donna molto era molto in salute e poi era ignara di questa cosa, quindi non so come mai l'aveva quindi, nascosta. Come quando si passano le suore, uno si tocca per passare la sfiga della suora all'altro. Quindi dove l'ha nascosta a casa della nonna, la rosetta? Dietro un mobile, in mezzo a un sacco di roba. Ma con intento di nuocerle? Con intento di nuocerle? No. Scusi, no. Come uno avesse una bomba inesplosa, la mette a casa la nonna è per farle male. Ok, no, alla fine mia nonna ha vissuto fino a 101 anni, per cui la cosa è finita bene. Solo che quando poi è morta e abbiamo dovevamo ovviamente sistemare la casa, l'abbiamo vista la rosa, ci siamo guardate, abbiamo fatto assolutamente finta di niente, non sappiamo attualmente dove sia finita, se da qualche parente o in discarica. Quella si aggira ancora come la bambola assassina, ogni tanto appare. Io me la immagino così, sì, che sia a casa di qualcun altro adesso. Ma a sua nonna però ha portato bene, ha visto fino a 101 anni. No, mia nonna infatti... Però bisogna sapere, magari che ne so, tutto intorno, tutte le badanti di sua nonna c'avevano la diarrea quotidiana, c'è sempre qualcosa, logico. No, stavano bene anche loro, mi sembra. Ma allora la sfiga della rosa dove è andata a finire? Magari adesso, non so, sarà stata portata, io me la immagino che... Questa galleggia nell'aria come una puzza dell'ascensore, prima o poi qualcuno ci andrà a sbattere sopra. Vabbè, questo è chiaro. Allora, attenzione, se vedete una rosa di ferro, sapete che è la rosa che porta sfiga. Dorina, cominciamo, Dorina. Sono io. Di cosa si è liberata lei? Dunque, io le racconto la storia di una casa. Una casa maledetta? Una casa in cui io non andrei a mettere più piede. Maledetta, quindi? Maledetta, per me sì. Allora, abbiamo comprato una casa già costruita. Il signore che l'ha costruita, appena quasi finita, si è malato di cancro. Certo. Non è morto, però, diciamo, ha mandato in malora tutti i suoi affari. Ma magari metteva l'amianto dove non doveva metterlo? No, assolutamente no. Così, perché porta sfiga la casa? Allora, lui si è malato e per necessità economiche ha dovuto venderla. Quindi già sfiga bestiale. Anche voi comprate una casa che vende per mancanza di denaro, uno che si deve pagare le cure per il tumore perché esatto. La casa... Vabbè, ma già comprarla è un atto di sciacallaggio, non porta bene. No, l'abbiamo pagata al suo prezzo, non è che l'abbiamo preso per il collo per dire... Anche perché, cioè, poverino, al collo gli faccia male a questo no, tumore. No, appunto. No, non ci rida sopra. No. Allora, noi siamo entrati la prima cosa che è successa, mio figlio si è ammalato di del mal del zucchero. Di mal del zucchero? Ah, diabete, il mal del zucchero si chiama. A 24 anni, quindi non una cosa... Quindi appena entrato diabete? Appena entrato. Mm. Poi, a parte tutte le difficoltà che abbiamo avuto per sistemare le cose con il comune, perché noi l'abbiamo comprata con l'abitabilità, con tutto concesso, e quindi non era cosa mia decidere, cioè il notaio comunque doveva dire sì, problemi burocratici quelli sono abbastanza normali, quello che mi sono costati un occhio della testa. Poi il peperoncino proprio che ha fatto colmare il vaso è stato... No, questa com'è questa frase? Il peperoncino che ha fatto colmare il vaso? Sì, proprio quello che... Si usa dalle sue parti dire così, il peperoncino. Sì. È capitato. Ma perché voi intingete il peperoncino nel vaso? È un fulmine. Ah, fume sulla casa. Sulla mia casa. Sì. Con danni che non le posso dire. Beh, tira i fulmini, certo. Sì, ma tutta la parte elettrica. Avevamo appena finito di mettere a posto tutto l'impianto di riscaldamento, la parte elettrica, tutto bruciato. Per fortuna nessuno è morto. Vabbè, allora tutta sta sfiga dove... Eravamo a casa tutti e quattro. Mm. Conclusione, io non me la sentivo più di stare. Ho detto, qua basta. E l'abbiamo venduta. Senza dire però che portava sfiga. No, beh, certo. Io era una cosa mia, non è che potevo dire... Sì, però dire che l'ha venduta uno tutti, sapendo che già ha portato uno il tumore, uno il diabete, il fulmine, i problemi burocratici. Comunque già... io l'ho venduta a due amici che erano pochi amici, che pensi potevano essere... poi... No, pensi un po' se erano nemici, vabbè, allora amici... Erano amici, fratelli, perché erano i pompieri che facevano immersione subacquei. E cosa le è successo? Sa che c'è un rapporto veramente di fiducia. E che gli è successo? Dopo poco tempo che erano uno nell'appartamento di sopra, uno di sotto, hanno fatto un baruffone che non si sono più parlati per anni. Hanno litigato. Litigato da brutto. E si volevano un bene dell'anima prima. Ma le dico, fratelli. Fratelli, e poi dopo hanno litigato. I pompieri sono scannati. Poi hanno venduto, loro hanno, a loro volta, hanno venduto questa casa a una signora, una signorina, non so, non la conoscevo più perché ho perso anche il filo, che si chiamava Erika. Che fine ha fatto? Loro l'hanno la polizia l'ha pizzicata che spacciava droga, quindi galera. Vabbè, quello è un atto di giustizia, è giusto che la mettesse... Io ho capito, ma tutto là è capitato. Sempre in quella capisce? Casa. Quindi anche se uno fa lo spacciatore non deve andare a vivere in quella non casa. Non deve andare. E dopo Erika? C'erano dei nascondigli meravigliosi. E dopo Erika? Dopo Erika? Dopo Erika ci sono venuti altri due persone che non le conosco. Che incidenti hanno avuto? Questi qua hanno litigato perché quello di sotto ha pitturato la facciata in bianco e invece la casa era color mattone. Un sepolcro imbiancato diventa. E sono per mano di avvocato. Conclusione, io lì non ci metterei più piede neanche morta. Questo è un racconto dettagliato, un racconto particolareggiato e soprattutto con delle sostanziali evidenze sul fatto che la sfiga esiste. La casa maledetta che ha causato la morte del suo architetto, il diabete del figlio della signora, il litigio dei fratelli, il fulmine e altri litigi di altre persone, è lì che sta pronta con un cartello davanti, vendesi, attenzione, sarà incontrata per strada. 800 24 00 24, di cosa vi siete liberati per allontanare da voi la sfiga d'autunno? Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta venerdì 22 settembre, annunciazione, Radio 24 dalle 14 alle 15.30, puntata extra large di Tutti Convocati. Avremo la Coppa dei Campioni, lei, proprio lei, sul tavolo. Ovviamente potete vederla diretta Facebook anche per questo evento eccezionale. Ce la porteranno per mano due che l'hanno vinta. Eh sì, Cafu e Chivu saranno i nostri super ospiti, ma ovviamente avremo anche Giovanni Capuano, avremo De Luca dietro al vetro e poi Dario Ricci che fisicamente ci porterà la Coppa, sarà proprio lui l'uomo che ce la porterà, e ovviamente tutti i vostri commenti, i vostri ricordi, le vostre emozioni, quelle più belle, quelle più brutte, quelle dolci, quelle amare, quelle da gufi, perché c'è anche questo della Champions. Io mi faccio anche la barba per l'occasione. Io no. Vabbè, tu te la tieni. Dov'è la Coppa? A Radio 24. Melog. E vi hanno sempre ritenuto un uomo gioviale, di ottimo umore, un buon tempone, addirittura un portafortuna. Ah sì, eh? Sì. E intanto si toccavano, non è vero, signor giudice? Stringevano corni e chiavi. E chissà quante volte lo avrà fatto anche lei. Comunque, se non lo ha fatto ancora, lo faccia. Se non vuole che le caschi il lampadario sulla testa. Sentite, adesso mi avete stancato. Uscite, vi prego. Uscirò. Ma io devo avere giustizia. Devo avere la patente. Pane e giustizia. Che è successo? Il lampadario. È stato Totò che vuole la patente da iettatore. Tutti si toccano quando passa, tutti dicono che porta sfiga, quindi vuole la patente. Almeno mi viene riconosciuto il fatto di avere la patente da iettatore. È una nota e storia famosissima il fatto che esista lo iettatore, colui che porta comunque un ambiente malevolo, degli episodi malevoli alle persone. Ma questo fa parte della leggenda. Ma se voi pensate, credete che esistano prove che ci sia la terra piatta, voi credete che nelle scie chimiche ci siano dei veleni che servono ad asservire l'umanità, che fra noi circolano i rettiliani, voi pensate che il cancro si curi con l'acqua e limone, voi siete convinti che i farmaci omeopatici contengano chissà quale immemorabile sortilegio dentro per cui facciano guarire anche se sono fatti di acqua fresca, voi ancora pensate che i vaccini facciano diventare autistici. Ma perché non dovete pensare che esista la sfiga? Oggi esiste un tal diffuso senso di credenza nell'irrazionale che è giusto pensare che almeno crediamo alla sfiga, la cosa che ha sempre confortato gli uomini, che esistano altri uomini, altri oggetti, altre situazioni che siano le cause dei nostri mali. Ecco, attribuiamo i nostri mali a qualcosa che almeno sia concreto, quindi ce ne possiamo liberare. Di cosa vi siete voi liberati? Adriano, buongiorno. Buongiorno. Sono da Roma e sono stato colpito da questo intervento della signora precedente e parlava appunto di case. La casa maledetta, che è un classico. Però tutte le cose che le diceva, io sono architetto, lavoro in questo campo, diciamo, della la fortuna e la sfortuna legata alle case. È la sfiga architettura, come la bioarchitettura. Esatto. Mi occupo di Vastu, che è la scienza indiana, diciamo, che si occupa proprio della relazione tra la fortuna e la sfortuna collegata alle case. Cioè, c'è una specializzazione nelle facoltà di architettura in cui c'è, diciamo, si specializza in case sfigate, no? Perché può essere interessante. In America è molto... Beh, che in America c'è tutto, certo. Chiaro. C'è tutto, qui siamo agli albori. Però quindi lei comunque ha una specializzazione... Beh, cos'è specializzato? Nel costruire case sfigate o per far case che allontanino la sfiga? Questo è l'importante. Esatto. Ma questi fenomeni da descrivere... Cioè, la sfortuna non esiste, nel senso che noi siamo portati a attribuire alla sfortuna fenomeni che non capiamo. Certo, per questa ragione... Io le mani non le tengo qua sulla scrivania in questo momento, però sono convinto che non esista la sfortuna. Esatto, cioè. Non esiste, esiste fenomeni fisici che noi facciamo diventare sfortuna. Cioè nel caso della signora, per esempio, l'attirare i fulmini è perché la casa è costruita in un punto di maximorum, si chiama, di energia del campo magnetico terrestre. O forse non hanno fatto un parafulmine col cavo che va sottoterra, semplicemente quello. Sì, ma diciamo che questi fenomeni fisici, ma anche le malattie che descriveva, sono fenomeni indotti da un campo energetico che c'è nella casa. Una volta si mette l'amianto, cose terribili dentro i materiali edilizi. Esatto. Quindi... Quelle qua anche sono cose che quando ci sono queste malattie, diciamo, dobbiamo sempre andare a cercare la causa. La causa può essere conosciuta. Ma lei, scusi, fa anche diciamo delle ristrutturazioni. Metta caso, io c'ho un appartamento che sento che c'è la sfiga, lei viene, lo ristruttura, lo riporta in condizioni vivibili. Esatto. Ah, è questo, ho capito, diciamo, la specializzazione. Che, sì, c'è una scienza, diciamo, una pseudoscienza, ma comunque, diciamo, vabbè, comunque funziona. Collaudata, che funziona perché la casa deve essere a misura della persona. Se la casa è una dimensione troppo eccessiva o piccola o ha delle forme particolari, si sente in disagio. La sfortuna cos'è? È essere in disagio e quindi andare a avere dei comportamenti che... Però io, se avessi una stanza in più a casa mia, onestamente stare bene, con una stanza in più stare meglio. Forse questo, forse piccola la casa dove sto, devo farla un po' più grande, magari è questo il fatto. E vabbè, io architetto, mi conforta sapere che esiste qualcuno che comunque riesce ad arginare in qualche maniera questa terribile sfiga. Sentiamo Alessandro. Buongiorno. Anche lei è una casa sfigata? Salve, io mi sono, ho sentito la signora prima, l'ultima frase su, cioè sono arrivato di tanto comunque, e mi sono ricordato subito la storia, diciamo, da casa di mia moglie, La sua mamma era proprio indemoniata. Io ho scoperto questa cosa qua. Aspetta, indemoniato, ragazzi... indemoniata è un'altra roba. C'è il demonio dietro che uno fa le voci. Sono tua madre. No, magari... Sì, sì, dico che lei stava male, diciamo, di queste cose. Ma vomitava, poi, si sbatteva per terra, girava la testa a 360 gradi. Sì, sì. Poi okay, questa è indemoniata, non è sfigata. Era sofferente molto, parlava sempre da sola, volevano ucciderla. Poi noi mentre eravamo insieme, lei non sentite le suore sopra che sta parlando, perché sopra di lei direttamente c'è la soffitta. Poi le suore, che c'entra le suore? No, non ho capito, ha detto le suore. Lei sentiva le suore che parlano, ma voi non sentite, stanno ripetendo. Ma le suore com'è? Lì c'era un convento prima di voi in quella casa? No, è la casa privata, sopra direttamente la sua stanza c'era la soffitta. E la soffitta là c'è proprio una cosa molto molto molto vecchia, sopra mai nessuno è salito sopra da quando è morto il suo padre, era una cosa strana, è salito una volta. Che c'era in soffitta? Nome di Dio, ho sentito una cosa un po' strana, è salito di notte. Ma per esempio, che ne so, la casa 1 c'era tutta una strega putrefatta che stava sotto una botola, non aprite quella porta lo stesso, si lavorava di motosega a quel tempo, adesso non so come ha risolto lei il problema. Comunque adesso è una casa disabitata, perché io quando vado lì devo dire il nome di Dio, allora loro, anche lei quando io dicevo, quando mangiavano, non mi lasciano mangiare, gli dice il nome di Dio. Lei, vabbè, comunque scusa, come si fa in una casa, il nome di Dio ogni cosa che si fa, uno va, mangia, nome di Dio, beve, nome di Dio, va a fare la pipì, nome di Dio, conviene cambiare casa, le consiglio, non che ci sia niente di male, ma uno sta sempre a dire il nome di Dio. 800240024, non confondete, parliamo di sfiga, qua è qualcosa più roba di demonio, è un altro argomento, oggi parliamo di sfiga, a tra poco. Melog. La tristezza porta sfortuna. Noi di solito cosa crediamo? Crediamo che se siamo fortunati saremo felici, se invece siamo sfortunati saremo di conseguenza infelici. In realtà è vero esattamente il contrario. Quando noi pensiamo che è la nostra felicità a fare la nostra fortuna, dovremmo invertire la causa con effetto, cioè se noi siamo felici saremo fortunati, non è la fortuna o la sfortuna che fanno felicità o infelicità, è vero esattamente. Questa è la massima di saggezza immancabile del grandissimo professor Massimo Taramasco, che dice che quello che sembra lapalissiano ma è proprio così, se si è infelici si è sfortunati, quando uno è triste è sfortunato. Ci sono i singhiozzi lunghi dei violini d'autunno oggi, giorno dell'equinozio d'autunno, e chiaramente oggi parliamo di sfiga, a tutto c'è naturalmente una corrispondenza. Michele, buongiorno, questo è molto interessante. Michele. Buongiorno, buongiorno. Lei tocca un altro luogo molto frequentato, i comuni, i posti, le località che portano sfiga solo a nominarle, è vero? Esatto, esatto. Premetto, sono un geologo, quindi in tempo di università si fanno escursioni, campagne. Comunque un uomo di scienza, un geologo, quindi una persona razionale. Perfetto, non è che perfetto, quindi io non credo a queste cose. Nessuno ci crede. Però è vero. In una di queste escursioni in Basilicata, all'inizio dell'escursione cominciarono a dire dei colleghi: ah, c'è un paese che solo nominarlo porta sfortuna, non nominiamolo. La regione, si può dire la regione? Basilicata. Ma è un comune grande, piccolo, medio? Piccolo, piccolo, piccolo. Tra l'altro anche molto bello, però insomma la mia esperienza è questa. Quindi per tutta la settimana noi non abbiamo pronunciato questo nome, ce ne siamo tenuti ben lontani e roba. L'escursione magnifica, finiamo l'escursione. Ma le persone che li abitano lo sanno? Penso di sì. E quindi cosa c'è? C'è un cartello fuori, non c'è scritto benvenuto, c'è scritto andate. Ma che ne so, si gratteranno sempre, cose del genere. Boh. Avranno delle palle piagate gli uomini. Probabilmente. Scarnificate completamente. Probabilmente. Faranno dei pantaloni con le tasche cucite in cui uno ci tiene sempre le mani dentro. Certo. Infatti. Ma non si può accennare soltanto quale sia. Questo. Io non lo faccio, anche perché l'ho dimenticato volutamente, devo dire la verità. Vabbè, cosa succede in questo paese? Succede che finiamo questa escursione, ultimo step, saliamo in pullman, dobbiamo ritornare a Napoli. Ok, finita, tutto bene, dai, pronunciamo sto nome, qual è sto comune? L'avete detto? Un collega l'ha detto, appena finisci di dirlo, non ci crederai, si blocca il pullman e ci vengono a recuperare alle 4 di mattina su una strada di montagna con una difficoltà di accesso enorme. E quindi è vero. Ma comincia con la C questo comune? Mi sa di no. Mi hanno detto un comune della Basilicata, ma non è quello, va bene. Comunque, quindi la mia esperienza è questa. Quindi appena finito di dire il nome di questo comune, si blocca il pullman e rimaniamo lì una nottata. No, è quello, perché hanno fatto le ricerche, colleghi, il professor Chiappini. È quello? Certo, bene, è Colobraro. Questo, okay. Lo sai, l'ho detto. E adesso è anche succede. Grazie, che ti devo dire? Che Colobraro sia con lei. Andiamo a Colobraro a prenderci un caffè. Vabbè, lo dico per sdrammatizzare. Chiaro che non succede niente. Sì, vabbè, sono sicuro. No, non è neanche un avvustato, solo un istante. Solo un istante, non vi spaventate, può capitare. Allora, Roberto, andiamo avanti. Roberto, cosa è successo? Volevo un attimino illustrare che cosa mi stava accadendo fino a che non ho trovato un provvedimento. Qual è l'oggetto? Regalata. In questo caso qual è l'oggetto? L'oggetto è la maschera tribale, come ricordo dal Vietnam. Ma lei che era andata a fare? La guerra in Vietnam, com'era andata? No, signore, mi fu regalata da un militare americano. E la storia com'è? Questo è andato a combattere nel Vietnam e... Sì, si è portato dietro questa maschera tribale che mi ha regalato poi. Strappandola da uno sciamano vietnamita, non lo so. No, non lo saprò mai perché però... non l'ho più contattato. E com'era questa maschera? La descrive innanzitutto. Sì, dunque, ma bisognerebbe che io la scoprissi, ma non la voglio fare. Vabbè, si ricorda un pochino. Se no cade subito la linea, meglio che non lo scopra. Ma perché la tiene coperta, lei? È completamente scolpita nel legno, sì. È fantastica come lavorazione, però mette molto a disagio guardandola. Ma come la tiene lei? Come fa a salvaguardarsi da questa maschera? Dove la tiene? Adesso sono costretto a tenerla in un garage perché mia moglie me l'ha fatta buttare fuori. Il giorno stesso che la portai su in casa, ha presente un tegame pieno zeppo di pomarola. Sì. Direttamente sul pavimento bianco di cucina. Vabbè, si lava il pavimento, è fatto il maionica. Giorno stesso che lo portai. Allora a quel punto ho immaginato che fosse attribuibile a quello e la portai giù in garage. Ma però tutta sta figa, ha fatto cascare una padellata di sugo, non è che sia proprio tutta sta cosa, dai, non mi pare no, sia... No, ma appena portata a casa, mia moglie appena l'ha vista... Ma solo questo episodio c'è stato? No, dal momento in cui l'ho portata giù in garage, però in bella mostra, tutto è cominciato ad andare alla rovescia in casa. E le analisi del sangue che mi chiedevano la ripetizione perché c'era qualcosa che non andava. Insomma, una serie di cose. Era evidente che era colpa della dama. E quindi abbiamo attribuito a quello. Ma perché non l'ha buttata nel fuoco e ci ha fatto un falò? No, signore, no, perché è talmente fatta bene, è bella che nessuno la butterebbe. È l'attrazione per il male. Quindi la tiene coperta qua. Coperto. No, ho trovato il sistema di mettergli un asciugamano sopra e di tanto in tanto la scopro di dare un'occhiata, ma immediatamente... E sento una fitta feroce, la ricopre, va bene. C'era anche Angelo, c'era un camaleonte che portava un sacco sfiga, ma sai, camaleonti, quelli che si comprano di plastica intorno alle piramidi dei venditori di paccottaglia egiziana, portano una sfighissima e quindi bisogna stare molto attenti. Poi non sono camaleonti, sono scarabei, ma forse voleva dire la stessa cosa. Beh, ci sentiamo, forse, la prossima settimana.